Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola riccione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sto un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Guarda la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Mi fa un'altra! E buongiorno un cazzo a tutti, questo giovedì di inizio dicembre o fine novembre, perché sapete che io non ho più un rapporto con la cognizione del tempo, non so proprio più che giorno è, quando è, inizio dicembre, stavo dicendo una cosa corretta, quindi benvenuti subito dopo le 7 in questo giovedì di inizio dicembre, ci si approssima verso o approssima verso il Natale. E però ciò nonostante è sempre un buongiorno un cazzo per tutti quanti e a tutti quanti qui da Runtime Radio, www.runtimeradio.it, la vostra web radio geek, e nella quale insomma noi riversiamo tutte le nostre energie, tutta la nostra buona volontà, e voi ogni tanto ascoltate, e quindi se vi dovesse capitare insomma con il vostro amore e la vostra presenza sia in spirito che in corpo di dare un sostegno a questo nostro progetto andando appunto sul sito runtimeradio.it sulla scheda Runtime Anch'io, potete tranquillamente dare un vostro contributo, una tantum, così come fanno in tanti, oppure dare una partecipazione ricorrente su Patreon, così come fanno altri tanti insomma. Non tantissimi, ma devo dire che quest'ultimo anno è stato importante per noi, anche perché molto probabilmente è stato anche riconosciuto un po' lo sforzo che abbiamo fatto, no? Durante il periodo della pandemia e soprattutto quello che stiamo facendo adesso, che anche senza pandemia Runtime Radio ha preso questa deriva, che è quella di essere una radio quasi vera e propria, soprattutto la mattina, perché mi sono sempre domandato come fanno quelli che fanno radio la mattina a fare radio la mattina, cioè nel senso svegliarsi magari alle 5, c'è qualcuno che prepara la trasmissione, preparare tutti gli assets, la regia e tutto quanto. Ecco, adesso lo sappiamo anche noi come si fa. Questo è, come abbiamo detto tante volte, è stato stimolato ovviamente dal contributo di Leo Argon, che comunque ha raddoppiato insomma ha triplicato il suo sforzo con le live della mattina, e a quel punto, visto e considerato che noi ci trovavamo comunque nelle condizioni di essere già più che svegli la mattina, per ragioni insomma abbiamo raccontato tante volte con il fatto delle bestie che ci rompono i coglioni, e allora abbiamo anche noi insomma dato il nostro contributo con una triplice presenza, anche se alterna, no? Quindi il martedì c'è Michela dalle 7 alle 8, il giovedì ci sono io dalle 7 alle 8, e poi dalle 8 e mezza alle 9 e mezza di sabato ci siamo io e Michela. Tra l'altro mi sa che questa settimana, ok, poi la prossima settimana ci spostiamo di domenica, perché poi sono impegni, cose che insomma stiamo cercando di capire. Bene, varie riflessioni durante questa puntata, perché non c'è un vero e proprio argomento preciso, però iniziamo con il brano di ogni puntata. E vabbè, questa inutile insomma presentarla, no, la canzone, che facciamo, la presentiamo? No, insomma sembra abbastanza inutile, no? Era Peppino De Capri in no, scherzo, John Lennon con Imagine. La canzone è importante per quelli della nostra generazione, perché poi alla fine quelli come noi di quel periodo lì, diciamo così, spesso e volentieri facevamo incetta, diciamo, di queste cose che venivano da un passato precedente al nostro, per stimolare, amplificare un po', come posso dire, la nostra il nostro spirito, no? Il voler credere, insomma, in qualcosa di migliore, in qualcosa di più importante, no? Per il nostro stesso futuro. E che poi, tra l'altro, io ho sempre pensato che per quanto difficile sia, no? E facilmente doloroso e pericoloso sia credere sempre nelle buone cose, insomma, quindi in un futuro migliore, in un uomo migliore, in una società migliore, per quanto sia appunto impegnativo pure dal punto di vista un po' dello scotto che si va a pagare, perché chiaramente c'è sempre la controparte, la parte opposta della medaglia, che è che le cose non cambiano se non peggiorano. È però un modo di vivere da un'altra parte anche in maniera migliore, non sperare, non avere nessun tipo di fiducia nei confronti di quello che verrà dopo non ha molto senso per me, perché alla fine si rischia poi di chiudere proprio anche il proprio spirito nei confronti delle cose, insomma. E siccome io alla fine sono uno che, anche se sembro un po' così orso, poi alla fine sono sempre stato abbastanza un ottimista, anche se ultimamente forse mi sono mostrato in una maniera un po' diversa, forse anche un po' distaccata anche nei confronti delle cose che fanno parte della vita, e dico vabbè, succedono e via dicendo, però in realtà poi alla fine comunque ho sempre questa buona volontà nel vedere, nello sperare, nel pensare che ci sia poi comunque la possibilità di costruirlo un mondo migliore, perché poi penso che comunque per quanto ci si tuffi in maniera così devota verso la distruzione, insomma, ci sarà un momento in cui qualcuno si fermerà e dirà vabbè, ma cioè cazzo, comunque vabbè, comunque non so, questi i temi che voglio trattare. Io nelle riflessioni generali dico sempre che Runtime Radio, Italian Podcast Network, allora, ma in particolar modo di tutto un podcast di archeologia videoludica, archeologia informatica, sono quei podcast che ci hanno fatto muovere mari e monti certe volte, anzi anche senso certe volte, e ci hanno permesso di fare grandissimi incontri, grandissime interviste, cose insomma che dal nostro basso, quindi dalla nostra praticamente quasi inesistenza, sembravano cose impossibili, no? Eppure ciò nonostante, in qualche maniera, anche in un periodo in cui non era poi così facile, no, riuscire a catturare determinate personalità, determinati personaggi, alla fine comunque siamo riusciti a fare grandi cose da questo punto di vista. E devo dire che il podcast, anche se poi dice che culo, uno direbbe fra virgolette, no? Però devo dire che il podcast e poi dopo ovviamente i canali YouTube mi hanno regalato cose che quando ero ragazzino non mi sarei mai immaginato, no? E quindi alla fine mi ritengo un po' un privilegiato, no? Perché mi ricordo l'intervista che facemmo con Carlo e Stefano Paganini, buon'anima di Stefano Paganini, a Nolan Bushnell, al quale ho stretto la mano. Per me è stato un momento importante, perché mai veramente mi sarei sognato di avere l'opportunità di incontrare e salutare, stringere la mano e avere anche un'interazione, no? A un certo punto di vista, così come è stata con l'intervista Alan Alcorn, che ovviamente trovate ovviamente sul nostro canale YouTube, e che non solo, alla fine ho avuto l'opportunità di intervistarlo e quindi mettermi lì a poterlo salutare, fare la foto insieme, avere la dedica, diciamo, l'autografo sul foglio dell'intervista. E poi l'ultima intervista che abbiamo fatto, importante, anche se qui non c'è stato un contatto diverso, con uno che indirettamente è stato un po' un mito della mia infanzia, perché Mike Tomczyk, che abbiamo intervistato recentemente sia per il podcast di archeologia informatica che per il canale YouTube, video che è uscito martedì scorso, per me insomma indirettamente è una sorta di mito, perché per me il mio primo grande, vero grande amore è stato il VIC-20, come ho detto tante volte, il Commodore VIC-20 che è stato il mio primo computer, anche se prima c'ho avuto magari l'Atari come videogioco, però è stato il mio primo computer al quale sono legato proprio affettivamente, e vabbè, se ne narra insomma di questa cosa, perché ne abbiamo parlato tantissime volte anche del momento in cui ho scartato questo benedetto computer. Però quando ero ragazzino amavo questo computer, ma non è che sapevo chi era Mike Tomchic, quindi cioè, non è che mi sarei mai posto il problema. E comunque Carlo e Roberto, Carlo Sant'Agostino e Roberto Tomaiuolo lo hanno intervistato, e abbiamo messo finalmente questa benedetta intervista sul canale YouTube di Archeologia Informatica, che vi invito ad andare a vedere. Tra l'altro a breve saranno disponibili anche i sottotitoli in italiano, dato che ovviamente queste interviste sono tutte quante in inglese. La cosa bella è che praticamente, e qui scatta la riflessione, cioè l'ho presa molto alla larga, no? però in realtà c'è la prima riflessione di questa puntata, perché praticamente che cosa è successo? È successo che noi la notte di ieri, non questa notte ma la notte precedente, quando mi sono svegliato per andare a fare la pipì, perché io faccio la pipì la notte, perché tra l'altro buongiorno un cazzo di quello che mi pare, e guardando il telefono praticamente ho visto questa mail, ma con la coda dell'occhio, sapete quando c'è l'occhio un po' appiccicoso, leggete, capite, non capite, no? E leggo Tramiel, ovviamente nelle note, nei tag della mail, no? E dico Tramiel, e vado a vedere, insomma ci scrive sto Leonard Tramiel, che praticamente ritiene che tutto ciò che è stato detto durante l'intervista è pura fiction, che lui è indignato e bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Fortunatamente, senza dire rimuovete il video, vi farò, anche perché insomma qui si parla del figlio dell'uomo che ha costruito in un momento l'azienda informatica più potente del mondo, no? Cioè nel senso, quindi c'è, ovviamente oggi la Commodore non esiste più, non esistono più le condizioni e tutto quanto, però mi ha fatto comunque riflettere questa cosa. Poi dopo, parlando un po' con il resto del team, Roberto Tomaiuolo in particolare, mi ha detto che praticamente nei gruppi Commodore, quelli internazionali, sto Leonard Tramiel, che ricordiamo è il figlio insomma di Jack Tramiel, il fondatore di Commodore, uomo da una storia straordinaria, lo sapete, dai campi di concentramento alla vetta mondiale dell'informatica, insomma un uomo che ha fatto un percorso incredibile. E la cosa bella è che praticamente questo Leonard Tramiel ovviamente su questi gruppi continuava a protestare indignato, chiedendo anche insomma la rimozione del video e via dicendo. Poi noi abbiamo assunto un po' una posizione di un certo tipo, che è quella: noi i video non li cancelliamo, se tu c'hai qualcosa da dire o da raccontare la tua versione, noi ci fa solo che gioco insomma questa cosa, anzi ben venga, no? La polemica va sempre bene, come dicevamo anche con Michela quando facevamo di tutto un podcast, la polemica aiuta l'ascolto, no? Dicevamo pure con Luca Casciola, ci divertiamo molto su questa cosa, no? E però poi praticamente, e qui arriva veramente il focus della discussione, praticamente questi due, che chiaramente si conoscono da sempre, no? E invece di farsi una telefonata e di ma guarda che tu hai detto sta cosa qua, no ma guarda che era così, tu non ti ricordi bene e via dicendo, stanno a fare polemica sui gruppi Facebook internazionali di Commodore, quindi della passione di Commodore, cioè questi stanno a litigare su internet come un vax e un novax becero di Ariccia farebbe qua da queste parti, insomma, cioè nel senso, e questa è una cosa che mi fa riflettere, perché è vero che abbiamo detto che è un po' il male di questi tempi, no? Con i social oramai si fa polemica, si discute su qualsiasi cosa, si litiga anche con una facilità estrema, non c'è più quell'inclinazione che poi in teoria il social network per vocazione dovrebbe sostenere, no? Dovrebbe supportare, quello della conversazione, del dialogo, dello scambio. No, oramai si utilizza soltanto per litigare, però ribadisco, fino a che lo fanno due boomer che parlano della scemenza qualsiasi, come può essere, scusate se mio figlio ha fatto la cacca nel vasetto sul tavolo del ristorante o no, qui stiamo parlando di due personaggi che comunque hanno a che fare con la storia, cioè sono personaggi storici importanti che hanno una rilevanza non indifferente dal punto di vista proprio del percorso dell'informatica mondiale, che litigano come se fossero Duzzi, Peppe, qualsiasi, all'interno di gruppi internazionali, e si stanno praticamente insultando e continuano. Praticamente ieri sono state 12 ore fitte, ma poi hanno continuato, cioè, perché io so che stasera, ieri sera ancora mi arrivavano notizie del fatto che questi continuavano a litigare. Ecco, mo è vero che me, quando poi Roberto mi raccontava, mi faceva un po' diciamo il resoconto di quello che stava succedendo, mi veniva da dire poracci, no? Nel senso, come se, cioè, nel senso, sti due vecchi. Però poi alla fine, nel senso, sì, so due vecchi, però sono sempre due personaggi, oppure il contrario, cioè, sì, so due personaggi, però poi fondamentalmente sono due vecchi. Bene, bene, mentre il gatto ha voluto assolutamente stare sotto la pioggia, sperando che questo non comporti la sua morte, andiamo avanti con questa nostra mattina di Buongiorno un cazzo. Questi sono i Pure Minds, Pure Minds. Everything We Wanted. E devo dire, questa canzone è anche carina, tutto sommato, e rientra, insomma, in quelle occasioni in cui a volte le canzoni Creative Commons sono carine, però mi permette anche, da un certo punto di vista, di agganciarmi un po' a quello che è la seconda riflessione di questa mattina, ed è una riflessione un po' più a largo campo, perché comunque riguarda la nostra storia, una storia che viene da molto molto lontano, che noi consideriamo molto lontano, ma nell'era tecnologica, insomma, 11 anni sono veramente tanti, 11 anni in realtà poi sarebbero quasi 12. La nostra storia nasce come podcaster, come abbiamo raccontato tante volte, partendo io e Michela con una singola trasmissione che si chiamava di tutto un podcast, con la quale noi abbiamo iniziato a fare dei racconti di noi, insomma un po', diciamo tra virgolette, emulando un podcast che già esisteva, che era Pizzacast, dove c'erano questi marito e moglie e gatta che praticamente facevano questo podcast, dove facevano riflessioni varie e facevano sentire della musica, un po' come succederebbe in una trasmissione radiofonica. Diciamo, sulla falsariga noi abbiamo costruito anche il nostro podcast, che però per come siamo fatti noi, chiaramente poi la cosa ha voluto evolvere e quindi è cercato di andare praticamente avanti verso cercare di costruire un qualcosa di sì che partiva da quelle basi, ma che andasse ben oltre da questo punto di vista. Sì, ci vorrebbe un passista. Ho legge un attimo il commento di Walter sull'argomento di prima, che tra Melino e Tom Chick ci vorrebbe un podcast geriatrico. Guarda, sarebbe anche divertente invitarli. Lumacast. Sarebbe anche ciao Francesco, ciao Michela, ciao Walter. Intanto sarebbe anche carino intervistarli tutti e due insieme, perché secondo me, oppure dentro una stanza con telecamere, secondo me finisce che semenano anche. Comunque dicevo del fatto di tutto un podcast, che era un podcast che a un certo punto ha cercato di andare avanti, quindi cercare veramente ospiti importanti, temi importanti, a volte anche scottanti, e anche se molti dei podcast che esistevano allora erano, diciamo, tra virgolette, se fossimo in America, diciamo in area democratica, diciamo così, dato che siamo in Italia, di ispirazione di sinistra, diciamo così, c'è stato un momento in cui noi abbiamo fatto veramente un po' il passo, eravamo diventati un po' il punto rosso, tra virgolette, insomma, all'interno del mondo dei podcast, e questo ci ha anche permesso di arrivare, di raggiungere magari alcuni personaggi, alcune situazioni, e fino ad accreditarci al Festival del Giornalismo come addetti ai lavori, insomma, quindi alla fine, insomma, ci ha fatto fare veramente un bel viaggio di tutto un podcast. Però di tutto un podcast, come non tutti gli altri podcast, perché poi gli altri podcast che abbiamo costruito erano tutti a base tecnologica e più o meno, insomma, era raro che c'era della musica, anche se poi dopo sono nati anche tantissimi altri programmi. In linea massima di tutto un podcast nella sua genericità, diciamo così, anche se era un programma di informazione, era un programma di informazione sul modello di Radio Capital. Radio Capital, parliamo del 2012-2013, insomma, quando c'era ancora Zucconi che faceva il direttore, prima appunto che ci lasciasse definitivamente. E quindi all'interno di questa trasmissione, idealmente, insomma, a quello che faceva Radio Capital, tra notizie, varie notizie o nelle durante le interviste o per spezzare via dicendo, c'era della musica, e la musica è sempre stata la musica Creative Commons. Anzi, mi fa piacere perché vedo che poi alla fine, tra questi brani che passiamo, no, che rulliamo su Runtime Radio, alla fine ci sono dei brani che derivano da quell'epoca, quindi ci sono ancora delle canzoni che ritroviamo. È come un po' rivedere una persona che non vedi da tanto tempo, vedi, ti ricordi quello, non è importante se ti stava simpatica, se faceva schifo o no, però insomma è comunque il fatto di ritrovare cose che stanno ancora lì, anche se Michela converrà con me, c'è una canzone che non abbiamo trovato ma ritroveremo, che si chiama Irina Vagina che è una canzone bellissima. Comunque, diciamo che il discorso dei Creative Commons all'interno del mondo del podcast, soprattutto all'epoca, era una questione ideologica più che una questione di necessità, o viceversa, non lo so, non l'ho mai capito, però in realtà era comunque mascherata da questioni ideologiche. Cioè, sì, ok, è vero, noi non possiamo passare pezzi SIAE, ma ne siamo contenti perché tutte queste canzoni che derivano da Giamendo o da altri siti Creative Commons sono pod free, andava di moda sta parola che vuol dire assolutamente un cazzo, sono comunque liberamente distribuibili e quindi ci permettono di mettere della musica all'interno delle nostre trasmissioni. È vero che tante volte alcuni podcast si facevano una volta al mese, barra noi mi pare facevamo una volta a settimana per un periodo, e quindi Michela magari per esempio c'aveva il tempo seguire un po' alcuni percorsi e trovare dei brani qualitativi, quindi la scelta musicale su Giamento era di alto livello rispetto a quello che facciamo noi oggi, per ragioni completamente diverse e anche ovvie da un certo punto di vista, no? E quindi praticamente era una scelta anche ideologica, era una scelta ideologica, anche se poi avremmo potuto anche farne a meno, e qualche volta ne abbiamo fatto a meno, perché tanto dicevamo, ma noi, ma chi ci ascolta? Cioè, nel 2010 i podcast in Italia, ma chi li sentiva? No? Poi non esistevano, secondo me, neanche le tecnologie che esistono oggi, non avevamo la web radio, non avevamo tante cose che quindi ci limitavano. Anche, anzi, c'era un nostro amico, il caro Busalacchi, che al quale insomma mandiamo sempre un caro saluto, perché è una persona molto sfortunata, devo dire, nella vita molto sfortunata, anche se un cuore incredibile, che lui ci ha sempre sostenuto. Era un super appassionato di radio, lui costruiva Radio Pirata, insomma, durante gli anni 70-80, aveva messo su questa sua radio, web radio, praticamente completamente manualmente, con, non so, l'articolo non si faceva con come si chiama quel software che si fa, se non sono le playlist, che ci si potevano fare anche le web radio, vabbè, adesso non mi ricordo. E quindi, vabbè, metteva anche canzoni, perché tanto non ne fregava niente, cioè, nel senso, chi ci ascolta, giustamente. Era solo un modo per mandare 24 ore su 24 i podcast, più canzoni, più cose, insomma, alla fine era un modo per fare questa cosa qui. E io tante volte mi sono interrogato, perché è vero, noi in Italia abbiamo questo problema della SIAE, che è un problema a livello globale, noi ce l'abbiamo solo in Italia. Cioè, ogni paese ha comunque la sua agenzia addetta alla tutela e alla gestione dei diritti d'autore per quanto riguarda il ecco, finalmente il gatto ha deciso che forse basta pioggia, io prenderei a calci da mattina a sera, e che ovviamente si occupano di gestire e tutelare i diritti d'autore, e chiaramente si barcamenano a seconda delle leggi che riescono a far imporre nel proprio paese, e più poi ovviamente sono anche delle regole internazionali. E io non ho mai messo in discussione, come fanno quelli per esempio del software libero, che dicono no, il software deve essere libero, non deve essere a pagamento. Cioè, io non ho mai avuto questo tipo di impronta nei confronti delle cose, perché io penso che dietro a un lavoro c'è della gente che lavora, giustamente. Però è vero pure che secondo me bisogna fare dei distinguo che siano possibilistici, non assurdi, perché chiaramente una web radio come la nostra, che non ha pubblicità, che non ha ritorni commerciali, che non movimenta del denaro fondamentalmente, non può pagare 1000 euro l'anno per avere i diritti e l'utilizzo della musica commerciale. Non può. Non può perché non se lo può permettere, ma non può perché moralmente non è neanche giusto. Non è giusto perché ci sono le forme più basse di radio commerciali che pagano 2500 euro l'anno. Quelle associative, quelle... Cioè, è ridicolo, no? Ma io non dico che io non devo pagare niente, ma tu non puoi venire a chiedere soldi agli unici che stanno lì. Allora, tante volte abbiamo fatto tante volte questa riflessione, anche con Alex, anche con Michele in particolare, del fatto di dire, ma se noi ce ne fottessimo proprio riccamente, considerando poi che i nostri server di streaming della radio stanno in America e che siamo comunque monitorati dall'ente americano per l'agenzia, cioè l'agenzia americana, insomma, per i diritti d'autore, che però fino a che ovviamente non intacchi, insomma, il loro orticello, cioè nel senso comunque non rientri nel loro ambito commerciale, loro magari non se ne fregano, però comunque monitorano, non sai magari se poi danno feedback alla tua agenzia per la gestione dei diritti d'autore o no. Comunque, nonostante essere monitorati, noi rappresentiamo un giro nell'etere digitale talmente irrisorio, talmente microscopico, quasi totalmente inesistente. Questa è una radio che è passata dai 400 ai 700 ascolti mensili unici, cioè ragazzi, stiamo a parlare 700 persone, che sono tante, per carità, assolutamente, però chiaramente sono inesistenti rispetto alle migliaia di ascoltatori o le decine di migliaia di ascoltatori della radio commerciale, dove c'è pubblicità e via dicendo. Quindi siamo praticamente quasi invisibili. Allora mi sono sempre detto, ma perché a questo punto non fare questa botta da matti e vedere che cosa succede? Perché tanto al massimo, secondo me, ti arriva un'ammonizione, cioè nel senso, perché non buttiamo nel calderone questa cosa di utilizzare veramente i brani copyright, che tanto lo facciamo comunque. Cioè, tanto lo facciamo comunque. Cioè, nel senso, il problema è che noi poi abbiamo un po' questo ennesimo equivoco, che siamo un po' radio, un po' podcast. Cioè, siamo principalmente autori di podcast che, andando in radio, buttiamo anche delle canzoni. Tipo, comunque, Le Orazioni della Sera, Disordinati Informati, la prediretta di Leo Varghion. Sono tutte trasmissioni che utilizzano brani copyright. E il fatto che poi questi brani copyright non vanno a finire nel podcast, significa e non significa. Cioè, per il podcast va bene, perché è una salvezza, chiaramente. Ma per la radio sta comunque compiendo una cosa illecita, tra virgolette, no? E quindi dico, vabbè, ma allora a questo punto, illecito o illecito, famo tutte le trasmissioni con i brani copyright e vaffanculo. E poi magari le tagliamo in podcast, che ne so. Però purtroppo nel resto delle ore, insomma, delle decine di ore di trasmissione, anzi 24 ore al giorno di trasmissione di runtime, sarebbe un po' un'assurdità, no? Mettere i brani commerciali, sarebbe veramente un'esposizione a un rischio veramente importante. Ecco, sarebbe carino, insomma, che aprire questo dibattito anche all'interno di Runtime Radio, perché chiaramente è ora di prendere anche un po' una posizione, no? Nel senso, anche pirata, no? Cioè, nel senso, noi comunque alla fine ci definiamo già un po' radio pirata, no? Da questo punto di vista. Quindi sarebbe carino, insomma, cercare di capire quello che... O se no si diventa associazione, così come avremmo dovuto già fare da tantissimo tempo, mi ricordo Carlo Sant'Agostino, perché lo decidemmo ovviamente in una riunione collettiva, e poi si fa una raccolta fondi e si pagano le licenze annuali. Il problema è che in Italia, per esempio, non bastano le licenze annuali di 800 euro, ma più c'è l'associazione fonografica, c'è poi... In teoria tu il brano lo devi comprare. Cioè, se io ho 10.000 brani nel mio database, i brani li devo comprare a 0,99 euro l'uno. Capite bene, insomma, che non c'ha veramente senso. Dai, stamattina ci ha detto bene, eh? Siamo stati fortunati. Moon, I mean Paradise. Carina questa, veramente carina. Tutto sommato, poi alla fine, cioè, quando c'hai 5.000 brani Creative Commons scaricati con tanto sudore, perché non vi credete che scaricare la roba d'aggiornamento sia facile, perché tu ovviamente apri playlist, cose del genere, cioè tu fai, insomma, ti apri tutto lo spettro delle cose che ti interessano all'interno del browser. E poi a volte il sito c'ha delle flessioni, cioè a un certo punto, e sai che ci devi ritornare dopo 45 minuti, lasci tutto aperto così e poi devi fare riaggiorna su tutte quante le pagine. Quindi grandegiamendo.com, che pur essendo diventato poi fondamentalmente un sito commerciale, perché anche qui, diciamoci la verità, noi stiamo utilizzando in maniera quasi impropria quello che in realtà è stato progettato per essere utilizzato come lo utilizziamo noi. Però bisogna le licenze, adesso ci sono le licenze pure sul Creative Commons, che ci stava, perché ci stavano le licenze commerciali anche sul Creative Commons, ci sono sempre state, non è che è una cosa, una novità, insomma, rispetto a quello che sappiamo, insomma, ci sono sempre state. L'unica tipo di licenza che non prevede in nessun modo, in nessun caso, è il copy zero, che praticamente in quel caso proprio non è previsto con quel tipo di licenza. Tra l'altro sarebbe bello fare una puntata e parlare della nascita di Creative Commons, di come sono sviluppati, e anche grazie alle università a livello internazionale che hanno comunque elaborato, poi progettato e sviluppato, diciamo, le concezioni dal punto di vista anche legislativo nei propri singoli paesi, perché il Creative Commons noi adesso lo consideriamo un po' così come musica del merdeggiamento, ma in realtà è dietro c'è un universo importante, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista anche ideale. Comunque, giustamente Walter mi ricorda che si faceva Winamp più Shoutcast, esatto, bravo, hai ragione, infatti lo facevo anche io quando non avevamo ancora proprio le linee, insomma, quelle importanti. Per un periodo di tempo lo facevo per giocare, perché era un gioco comunque, poi alla fine, come dicevamo, ma chi ti ascoltava, insomma. Allora, che poi il catalogo Giamendo non è così male, solo che non abbiamo una classificazione con programmazione oraria. A volte parte, sì, questo è vero, hai ragione. Il brano sbagliato al momento sbagliato. Questo è vero, ma questo dipende da me, però, non dipende dal Giamendo. Diciamo che Giamendo ha un catalogo interessante e c'è, però, è un po' come Steam per i videogiochi. C'è un emerso importante e un sommerso di merda improponibile, ma proprio non merda perché non è musica commerciale, allora barra merda, uguale merda. No, non è assolutamente questo quello che intendo, e sapete, insomma, come la penso. È proprio che c'è gente col... Adesso credo che ci sia una selezione, però è relativa, perché quando tu hai milioni di brani all'interno, e veramente penso che Giamendo ha milioni di brani dentro, se non comunque svariate centinaia di migliaia di brani dentro, è difficile oggettivamente fare una vera cernita. E lì c'era gente, c'era un periodo in cui la gente prendeva il registratore di casa con la chitarra e il signore è bello, gli vogliamo bene, la sua barba bionda, capito? Cioè, così faceva. Michela mi è testimone quante volte ne abbiamo, insomma, tirate fuori le sosserie, insomma, no? Quindi alla fine ora poi potremmo programmarci con la musica natalizia, sì, in effetti dovremmo. Allora, questa cosa della programmazione è giusta, sono d'accordo con Walter, accetto comunque l'osservazione, perché ci ho pensato tante volte e si può fare. Il problema è sempre e reperire la tipologia di musica adatta per poi catalogarla in playlist, che partono ovviamente a determinati orari secondo la base della programmazione che fai tramite il programma di regia automatica, che è sì regia automatica, ma comunque c'ha bisogno di una programmazione accurata, così come si faceva con i database in COBOL una volta, insomma, tutto sommato il principio è lo stesso. E se, sarebbe da fare, soltanto ci sarebbe veramente un lavoro importante. Sarebbe anche da capire se esistono ulteriori siti con database importanti come quelli di Giamendo, perché poi Giamendo ha un po' schiacciato, no, da questo punto di vista il discorso. Bene, sono le 7:42, io non v'ho fatto compagnia per quello che avrei voluto, però c'ho un ultimo argomento, ma proprio questo è una sorta di riflessione tutta completamente mia e non so quanto possa interessare a tutti, però io negli ultimi keynote, noi li chiamiamo keynote ma in realtà si chiamano keynote, di Apple, visti, insomma, seguiti ovviamente anche tramite Runtime Radio, tramite Tecnobills, Alex Raccuglia e i suoi Keynoters, ho fatto comunque una riflessione così mia, che probabilmente è tutta mia e voi non condividerete, oppure condividerete, mi fa piacere. Secondo me il Covid ha condizionato in maniera molto più importante, secondo me, di quanto noi percepiamo realmente le società occidentali, in particolare, perché comunque vivono su un equilibrio socio-economico importante, basato sul consumo, basato sui principi del capitalismo, anche quello, insomma, abbastanza radicale. E chiaramente una società che non è nelle condizioni di poter creare interscambio per problemi economici motivati da fattori esterni, crea inevitabilmente una crisi che, ribadisco, noi abbiamo affrontato comunque in qualche maniera, ma forse le generazioni future pagheranno proprio per l'aver dovuto sostenere la nostra società, perché chiaramente tutto questo avrà un costo un giorno. E secondo me quello che noi vediamo continua ad essere sempre quello che ci viene, che ci appare, ma non realmente quello che strutturalmente è. E chiaramente tutto si è molto ridimensionato, ma non soltanto nel modo in cui si fa marketing, diciamo così, è importante. Abbiamo visto tantissime case che comunque hanno presentato i loro prodotti in maniera nuova, tramite magari un lavoro di fiction anche migliore, ma sicuramente non più con l'impatto del pubblico. Quindi c'è stato questo nuovo modo, appunto, di presentare tutta una serie di prodotti, e c'è stata anche una riduzione importante pure nel costo e nella quantità di produzione dei prodotti. Io vedo Sony secondo me ha ridimensionato molto, per certi aspetti, alcune fasce dei suoi prodotti. Chiaramente poi, se ti tira fuori la macchina a 5.000 euro non può costare 2.500, questo sono abbastanza d'accordo. La mia percezione è che invece Apple racconta un mondo che non è mai cambiato, che loro non sono mai stati toccati da questa situazione, da questo contesto, da queste problematiche. Si nascondono dietro questa loro narrazione dell'universo chiesa intoccabile, dal quale ovviamente continuano a fuoriuscire grandi opere dell'ingegno umano, ovviamente prese un po' di qua e di là, acquisendo società e via dicendo, ma questo non è che lo fa solo Apple, insomma, lo fanno tutti, e in una maniera quasi inscalfibile. Tant'è che io stavo pensando, sono nella condizione di dover dedicare questo computer che sto utilizzando solo ed esclusivamente per il server radio, cioè, perché non è più in condizione di fare niente di quello che, cioè, nonostante è un grande eroe, io lo ammiro. E mi guardavo un po' in giro, e perché prima o poi mi dovrò comprare, insomma, un nuovo computer. E scusate, da una botta mi sono fatto male da solo. E nel guardarmi in giro, ovviamente, dico, quasi quasi sarebbe il caso, sai, per le questioni di editing video, queste cose che facciamo noi, alla fine potrebbe anche essere una soluzione utilizzare un sistema Mac, e facendo vari ragionamenti, sapendo, insomma, chi l'ha utilizzato, chi ha avuto modo, insomma, di metterci le mani, sperimentare comunque la potenza o la non potenza, mi è venuto in mente, insomma, di ad esempio un Mac Mini che, insomma, alla fine un Mac Mini con un hard disk Mac Mini, stiamo parlando di un computer con un hardware dentro che è specifico per essere funzionante, cioè, nel senso, però non c'hai tastiera, non c'hai mouse, non c'hai dischi, non c'hai monitor, non c'è niente, è soltanto il blocchettino, insomma, no? Blocchettino con un processore M1, quelli nuovi, insomma, di Apple, con 250 giga d'hard disk, che è importante, però ci sono anche i tagli da 512, e con 8 mega di RAM. Non c'è l'opportunità di averne uno da 16, che alla fine, anche se tutti mi dicono guarda che va bene, non ti preoccupare con l'hard disk così veloce, non te ne accorgi neanche, però a lungo andare c'è, cioè, 8 giga di RAM, tu lo sfragni l'hard disk praticamente. E insomma, ragazzi, stiamo sui, cioè, stiamo sui 900 euro. Quando un PC abbastanza carrozzato, con una scheda insomma di buona generazione, per fare, insomma, alla fine per arrivare a quel prezzo ci devi avere, boh, bella roba. Ma diciamo che però questo è un computer nuovo, una tecnologia nuova, che tutti mi dicono giustamente che è fenomenale, ci sta, insomma, no? Cioè, i Mac con il chip M1 sembrano interessanti, sembrano veramente potenti. Ma allora io guardo un attimo indietro, perché dico, vabbè, però io voglio risparmiare, preferisco non comprare un modello di ultimissima generazione, e vado a vedere praticamente il Mac Mini, sempre del 2020, però con processore Intel Core i5 di ottava generazione, con 6 core, 8 GB di RAM, sempre chiaramente, e 215 di hard disk. Allora dico, vabbè, allora senti, mi prendo questo, anche se poi era i5. Io ho un computer che, per quanto sia vecchio, no, di generazione, è comunque un i7, insomma, cioè, nel senso, in teoria dovrebbe essere. Ragazzi, i prezzi stiamo su per giù là, cioè 883,50 euro. Ma perché? Cioè, un computer tecnologicamente di generazione precedente, 883 euro. Sto guardando i prezzi su Amazon, poi magari, ecco, questa cosa che, e io quando vedo ancora la gente che guarda i keynote e vede, però questo qua, se tu lo guardi con lo e fai, mandi la pupilla a destra, lui capisce e fa questa cosa intelligentissima, e la gente ancora sbava questa, cioè, a me quello che mi fa specie, no, al di là del discorso che ho fatto, il marketing è, sei lì per convincerti che tu hai bisogno di quello, anche se non ce n'hai bisogno, no? Ma voi vi rendete conto che questi stanno a raccontare un mondo che non esiste più, o che non esiste più per i prossimi anni? Perché comunque, voglio dire, ci sarà un momento di flessione, ci deve essere un momento di flessione, ci deve essere un momento in cui si fa un, cioè, ci si viene anche un po' incontro, no? Nel senso, non dico la ridistribuzione della tecnologia, così come dovrebbe essere per i vaccini, no? Però insomma, cioè, tu non mi puoi vendere un computer, un i5, cioè un processore vecchio, dentro una scatoletta che non c'ha niente, non c'ha memoria, non c'ha niente, con 8 giga di RAM a 880 e passa euro, cioè è proprio un modo per non affrontare la realtà, o ancora meglio, per comunicare al mondo che tutto il mondo muore, ma loro sono ineluttabili, sono inscalfibili, sono indistruttibili. E tutta la gente sbava dietro a questa cosa, dice, bello, hai visto Apple, quanto siamo fighi noi che famo il tifo per Apple, perché se loro ci hanno il pisellone, noi abbiamo il pisellone con loro, insomma, cioè, questa è un po' la cosa, che so che è un po' banale come tipo di concetto, però a me sono giorni che questa cosa mi scarcina il cervello, perché sto lì, riguardo e vedo dei prezzi, ragazzi, che stanno fuori di testa. L'iMac mini, quello proprio basico, che poi alla fine è troppo basico, cioè, nel senso, è proprio tipo, tieni, ce l'hai, lo usi come soprammobile, come cornice, ci guardi Netflix, 1300 euro, ragazzi. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Che non è quello con cui ci lavori, perché quello con cui ci lavori devi spendere almeno 1700 euro. Che uno ce lo può pure sa, 1700 euro con un PC per fare editing video e grafica, ci arrivi alla fine, cioè, volendo, Però, boh, non lo so, è un pensiero stupido, però mi è venuto. Dai che andiamo ai saluti, ma. Come on, come on. Tutti al centro della pista, tutti con le mani alzate, tutti a muovere i fianchi. Scuotete bene le chiappe. Runtime Radio, la radio geek. Dai che siete orgogliosi di aver sentito un brano del genere. Vado a fare il DJ. Ah, te vedo a fare il DJ. Sì, sì, beh. No, io più che altro, più che il DJ, quello delle macchinine. Quello delle macchinine a scontro. Signori, attenzione. Oh, tu la macchina 4, fa attenzione. Sono queste cose così, capito? Vabbè, in altri tempi facevo le dere. Io in altri tempi, quando forse alcuni di voi erano a malapena nati, facevo le telecronache di bordo campo dei tornei di beach volley, quindi ragazzi, e mi divertivo, perché era assolutamente assolutamente divertente. Oh, da sabato a Roma sono obbligatorie le mascherine all'aperto, ma solo nelle zone affollate. Che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, tu vedi la gente, ti metti la mascherina. Ma chi discrimina? Eh sì, vabbè. Vabbè, dai ragazzi, mastica. Oggi di Covid non ho parlato praticamente niente. Adesso, insomma, un secondo, che a volte bisogna anche un po' staccare, no? La buona volontà di andare oltre, insomma. Ma non perché non bisogna parlare del Covid, anzi, sia chiaro. Benissimo ragazzi, questa è la mia puntata di Buongiorno un cazzo, che ha detto tutto, non ha detto un cazzo, non è una rima perché è una ripetizione, però ci stava, insomma. Non ho avuto veramente tempo durante questa settimana di trovare l'argomento, e sì che veramente tra i miei appunti ce ne ho tanti di argomenti, però vanno preparati, vanno un po' sviluppati. Insomma, nelle ultime due settimane non ho avuto tantissimo tempo, e molte cose mi sono passate un po' così, e a volte anche giusto così, cioè nel senso fare in modo che le cose passino e non stare sempre lì col grugno sulle cose che ci fanno incazzare. Buongiorno un cazzo, poi dopo alla fine a volte può anche essere un buongiorno un cazzo però col sorriso, insomma non è che succede niente di male, detto fra noi, rispetto a queste cose. Vi ricordo che domani mattina torna Leo Varghion con l'ultima puntata della settimana del Mattino all'Oro in podcast, e che sabato mattina dalle 8:30 alle 9:30 ci saremo io e Michela con Disordinati Informati, crossover con Buongiorno un cazzo. Vi ricordo che venerdì sera, quindi domani sera, torniamo alle 11 con Runtime by Night, quindi chi ha voglia, insomma, di ascoltare le nostre farneticazioni notturne, e io ce n'ho, perché io devo assolutamente raccontare quello che è successo alla cena della scorsa settimana, ovviamente senza fare nomi e cognomi, ma devo raccontare ragazzi, perché veramente questa società è sempre peggio, è peggio di come pensi che sia, e anche peggio, insomma. Questa è la cosa assolutamente importante. Ci sto pure io stasera, sì, ci arrivavo, dammi un attimo il tempo. Questa sera, appunto, come dice giustamente Walter, attenzione ai pulsanti che si spingono da soli, questa sera ovviamente c'è anche l'ultimo appuntamento della settimana per le orazioni della sera, dalle ore 20 alle ore 20:30, che poi diventano 20:45, tanto non si offende nessuno, perché fino alle 21:30 non ci sarebbe stato nessuno, ma non c'è nessuno comunque, perché la puntata di Quando eravamo futuro, dopo la bellissima puntata della scorsa settimana, rimanda di una settimana, proprio perché c'è un motivo abbastanza importante. C'è la partita da Lazio, quindi poi alla fine fa la trasmissione mentre che guardo la trasmissione, la partita da Lazio mi riesce, perché molti non se ne sono accorti tante volte, però insomma, pare brutto. Detto questo, ricordatevi www.rantameradio.it, la nostra radio geek che vi fa compagnia sempre e comunque, e che anche durante l'arco della settimana e durante l'arco della giornata, anzi, quindi alle 9, alle 11, alle 13, alle 15, alle 17, alle 19, ha tutta una serie di programmi storici che vanno ovviamente in trasmissione. Vi ricordo che nella fascia 11 e la fascia 17 stanno andando in onda le primissime storiche puntate di Dietrologia Videoludica, che facemmo ovviamente anche con il buon Luigi Marrone e Stefano Big Joe, anche detto Big Joe. Detto questo, insomma, se andate su runtimer.it sul tag anch'io e volete contribuire con il nostro progetto, noi siamo assolutamente contenti, ma spero che per voi sia una buona giornata, soprattutto perché il giovedì è l'inizio del quasi, anzi è l'inizio dell'inizio del fine settimana. Ciao a tutti.